Terzo anello. Ad alta voce. Elsa Agalbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. Emma non poté neppur lontanamente dubitare di aver messo sulla strada giusta la fantasia di Harriet e di aver rivolto a un nobile obiettivo la gratitudine della sua vanità giovanile, giacché la trovò decisamente più aperta che in passato al riconoscimento che il reverendo Elton era un uomo di notevole bellezza e di modi molto compiti, e siccome non esitò a rincalzare con opportuni accenni l'assicurazione che anch'egli l'ammirava, ben presto confidò di suscitare da parte di Harriet tutta la simpatia che le circostanze via via permettevano. Era convinta che il reverendo Elton si trovasse nella precisa condizione di chi sta per innamorarsi, se non si è già innamorato, e nei suoi riguardi non aveva scrupoli. Gli parlava di Harriet e ne tesseva lodi così appassionate che non poteva credere vi mancasse nulla che un po' di tempo non avrebbe aggiunto. E il fatto che egli si accorgesse dello straordinario raffinarsi dei modi di Harriet dal giorno dell'ingresso ufficiale ad Hartfield non era una delle prove meno gradite del suo affetto crescente. Lei, Emma, ha dato a Miss Smith tutto ciò che le mancava, l'ha resa piena di grazia e spigliatezza. Era una gran bella creatura quando è giunta qui, ma a mio parere le attrattive di cui l'ha dotata sono infinitamente superiori a quelle ricevute da madre natura. Mi rallegro che pensi che le sia stata utile. Ma Harriet aveva soltanto bisogno di trarre da se stessa e ricevere pochi, pochissimi consigli. Recava in sé tutta la grazia naturale di un'indole dolce e di una semplicità nativa. Io ho fatto ben poco. Se mi fosse concesso contraddire una signora, disse il galante pastore Elton, le ho dato forse un po' più di decisione, le ho insegnato a pensare ad argomenti che prima ignorava. Esatto, è appunto questo che soprattutto mi colpisce. Una maggior dose di fermezza. Abile è stata la mano. Grande è stato il piacere, le assicuro. Mai ho conosciuto indole più genuinamente amabile. Non ne dubito. E la frase fu detta con una specie di sospirosa animazione che aveva molto dell'accento di chi ama. Non meno compiaciuta fu Emma un altro giorno del modo come assecondò un suo improvviso desiderio: avere un ritratto di Harriet. Si è mai fatta fare il ritratto, Harriet? Ha mai posato? Harriet stava uscendo e si fermò solo per dire con cara ingenuità: «Oh no, Dio guardi mai!» Era appena scomparsa che Emma esclamò: «Quanto sarebbe squisito avere un suo ritratto! Darei qualunque somma per possederlo. Quasi quasi sarei tentata di farglielo io. Oh, lei non sa, immagino, ma 2 o 3 anni fa avevo una gran passione del ritratto e ne ho tentati diversi di mie amiche e in genere mi si attribuiva un certo occhio. Ma per una ragione o per l'altra ho smesso, delusa di farne. Tuttavia, se Harriet volesse posare per me, quasi quasi mi ci azzarderei. Sarebbe una tale gioia avere un suo ritratto. Si lasci pregare!» esclamò il reverendo Elton. «Sarebbe così bello! Lasci, signorina Woodhouse, che la implori di esercitare a favore della sua amica una dote così affascinante. So che cosa sono i suoi disegni. Come ha potuto supporre che non lo sapessi? Non è questa stanza così ricca di esemplari dei suoi paesaggi e dei suoi fiori? E nel salotto di Randalls la signora Weston non possiede alcune inimitabili figure?» «Sì, brav'uomo», pensò Emma. «Ma che c'entra tutto questo col far ritratti? Lei di disegni non ne sa nulla. Non finga dunque di cadere in estasi per i miei. L'estasi se la tenga per il volto di Harriet». «Beh, se lei mi incoraggia in modo così cortese, reverendo Elton, credo che tenterò di fare tutto il possibile. Le fattezze di Harriet sono molto delicate, il che rende difficile il ritrarle. Tuttavia C'è nel taglio degli occhi e nelle linee intorno alla bocca una particolarità che si dovrebbe poter fissare. Proprio così. Il taglio degli occhi e le linee intorno alla bocca. Non dubito del suo successo. Tenti, la prego, tenti. Come uscirà dalle sue mani, sarà, per servirsi delle sue parole, cosa squisita da possedere. Ma temo, reverendo Elton, che Harriet non vorrà posare. Ha così poca opinione della sua bellezza. Non ha osservato il modo di rispondermi. Voleva dire, perché mi si dovrebbe fare il ritratto? Oh sì, l'ho osservato, le assicuro. Non m'è sfuggito. Eppure non posso credere che non si lasci convincere. Harriet non tardò a riapparire. La proposta fu quasi subito fatta ed ella non manifestò scrupoli tali da resistere più di qualche minuto alle vivaci pressioni dei due. Emma avrebbe voluto cominciare subito e tirò fuori la cartella coi diversi tentativi di ritratto. Tentativi, giacché nessuno era stato portato a termine, in modo che potessero decidere insieme sulle dimensioni migliori. Furono allineati molti schizzi e studiati uno dopo l'altro miniature, busti, figure piene, matite, pastelli, acquarelli. Emma si fece presto un'idea del formato e del tipo di ritratto. Doveva essere a figura piena e all'acquarello, come il ritratto del signor John Knightley. E se poteva esprimere un desiderio, era destinato ad occupare un posto d'onore sulla mensola del camino. La seduta cominciò. E Harriet, sorridendo, arrossendo, trepidando di non poter mantenere l'atteggiamento e l'espressione voluti, presentava agli occhi fermi dell'artista una dolce mescolanza di giovanili espressioni. Ma col reverendo Elton che le armeggiava dietro, osservando ogni pennellata, non c'era verso di far nulla. Emma gli diede atto d'essersi collocato in un posto dal quale poteva mirare e rimirare senza danno, ma infine non ne poté proprio più e gli chiese di mettersi altrove finché non le venne l'idea di impiegarlo a leggere. Se era così gentile da voler leggere ad alta voce, sarebbe stata una gran bella cosa. Avrebbe svagato lei aiutandola a superare le difficoltà della sua parte e alleviato la noia di quella di Miss Smith. Il reverendo Elton non se lo fece dire due volte. Harriet ascoltava ed Emma disegnava in pace. Certo, doveva spesso consentirgli di interrompere la lettura per venire a vedere. Per un innamorato, meno di così sarebbe stato indubbiamente troppo poco, e alla più piccola sospensione della matita era lesto a balzare in piedi per seguire gli sviluppi del lavoro e andava in estasi. Con un sostenitore di tal fatta non c'era da stizzirsi, perché l'ammirazione gli faceva distinguere una somiglianza quasi prima che ci fosse. Non si poteva lodarne l'occhio, ma il suo amore e la sua gentilezza erano davvero irreprensibili. La posa riuscì come meglio non si poteva desiderare, ed Emma fu abbastanza soddisfatta dell'abbozzo del primo giorno per sentirsi spronata a continuare. Harriet doveva posare ancora l'indomani, e il reverendo Elton, come di dovere, implorò il permesso di assistere e leggere di nuovo ad alta voce. «Ma certo!» Saremo ben liete di considerarlo della partita. Le stesse cortesie e cerimonie, lo stesso successo e tripudio si ebbero l'indomani e accompagnarono tutti gli sviluppi del ritratto che furono rapidi e felici. Tutti quelli che lo videro se ne compiacquero, ma il reverendo Elton era addirittura in visibilio e lo difendeva contro qualunque critica. Miss Woodhouse ha dato alla sua amica la sola bellezza che le mancasse, osservava la signora Weston, non sospettando neppur lontanamente di parlare ad un innamorato. L'espressione dell'occhio è tale quale, ma Miss Smith non ha né quelle sopracciglia né quelle ciglia. Se il suo volto ha un difetto è appunto di non averle. Crede? Rispondeva lui. Non son d'accordo. A me pare una somiglianza perfetta in ogni tratto. Non ho mai visto una somiglianza tale in vita mia. Bisogna poi considerare l'effetto dell'ombra. «L'ha fatta troppo alta», diceva il signor Knightley. Emma lo sapeva, ma non voleva ammetterlo. E il reverendo Elton aggiungeva con calore: «Oh no, non troppo alta, niente affatto. Non dimentichi che è seduta, il che naturalmente offre un diverso, insomma, dà esattamente l'idea. E le proporzioni vanno mantenute. Proporzioni, prospettiva. No, dà esattamente l'idea dell'altezza della signorina Smith. Esattamente, proprio così». «Delizioso», diceva il signor Woodhouse. «Fatto con tanta grazia. Proprio come sempre sono i tuoi disegni, mia cara. Non conosco nessuno che disegni altrettanto bene. La sola cosa che non mi vada completamente a genio è che sembra seduta all'aperto con appena uno scialletto sulle spalle e uno pensa che debba prender freddo». «Ma babbo caro, si suppone che sia estate, una calda giornata estiva. Guarda l'albero». «Ma non è mai prudente star seduti all'aperto, cara». «Può dire quel che vuole, signore», esclamava il reverendo Elton, «ma io devo confessare che considero l'aver collocato all'aperto la signorina Smith un pensiero quanto mai felice. L'albero poi è tratteggiato con inimitabile brio. Nessun'altra posizione sarebbe stata tanto in carattere. Il candore dei modi di Miss Smith e tutto l'insieme è meraviglioso. Non posso staccarne gli occhi. Mai vista una tale somiglianza». Venne il problema di metterlo in cornice e qui sorsero alcune difficoltà. Bisognava farlo subito. Bisognava farlo a Londra. L'ordine doveva partire attraverso una persona intelligente del cui gusto ci si potesse fidare. E non ci si doveva rivolgere a Isabella, che di solito sbrigava tutte le commissioni, perché era dicembre e al signor Woodhouse non andava che uscisse nelle nebbie decembrine. Ma appena il reverendo Elton venne a sapere dell'imbarazzo in cui ci si trovava, la questione fu risolta. La sua galanteria era sempre allerta. Se gli si poteva affidare l'incarico, quale infinito piacere avrebbe provato nell'adempierlo! A Londra poteva andare a cavallo in qualunque momento. Era impossibile dire che gioia sarebbe stata per lui essere scelto a così nobile missione. «Troppo buono! Ma lei non poteva accettare. Per nulla al mondo avrebbe voluto affidargli un compito così fastidioso». Tutto questo provocò l'auspicata ripetizione di proteste, assicurazioni e preghiere e pochi minuti appianarono la faccenda. Il reverendo Elton avrebbe portato a Londra il disegno, scelta la cornice, impartite le istruzioni necessarie. Ed Emma pensò di poterlo impaccare in modo da tenerlo in salvo senza procurare un eccessivo incomodo a lui, mentre lui sembrava terribilmente pauroso di non essere incomodato abbastanza. «Che prezioso bene!» disse con un dolce sospiro nel riceverlo. «Quest'uomo è quasi troppo galante per essere innamorato», pensò Emma. «Così direi se non immaginassi che vi sono 100 modi diversi d'essere innamorati. È un ottimo giovane, esattamente quel che ci vuole per Harriet. Sarà un proprio così, come dice lui, ma sospira e langue e studia i complimenti, più di quanto mi andrebbe a genio se fossi io la prima attrice. A me, come seconda, ne tocca una buona parte. Ma è solo gratitudine a causa di Harriet». Lo stesso giorno della partenza del reverendo Elton per Londra offrì ad Emma una nuova occasione di rendersi utile all'amica. Harriet era venuta ad Hartfield come il solito appena dopo colazione e quasi subito ne era ripartita per tornare a pranzo. Tornò, infatti, ma prima di quanto fosse convenuto e con un'aria agitata e frettolosa, annunciando che qualcosa di straordinario era successo e non vedeva l'ora di raccontarlo. Bastò mezzo minuto per cavarglielo di bocca. Appena tornata dalla signora Goddard, aveva saputo che un'ora prima era stato lì il signor Martin. Non trovandola a casa e saputo che non la si aspettava tanto presto, aveva lasciato un pacchetto per lei da parte di una delle due sorelle e se n'era andato. Apertolo, Harriet vi aveva scoperto, oltre a due canzoni che aveva dato da ricopiare a Elizabeth, una lettera a lei diretta. E questa lettera era sua, del signor Martin, e conteneva un'esplicita offerta di matrimonio. Chi l'avrebbe mai pensato? Lei ne era così sorpresa, disse, che non sapeva che fare. Sì, proprio un'offerta di matrimonio. E una magnifica lettera, almeno così le sembrava. E scriveva come se davvero le volesse molto bene. Ma lei non sapeva che pensarne ed era venuta più in fretta che poteva a chiedere a Miss Woodhouse che cosa le convenisse fare. Emma ebbe quasi vergogna che la sua amica sembrasse così lieta e in preda a dubbi. Parola d'onore, il giovanotto è deciso a non perdere nulla per aver tardato a chiedere. Si accaserà bene, se può. Vuole leggere la lettera? La prego di farlo, ne avrei molto piacere, domandò Harriet. Ad Emma non spiacque farsi pregare. Lesse e grande fu la sua sorpresa. Lo stile della lettera era molto al di sopra di quel che si aspettava. Non solo non v'erano errori di grammatica, ma quanto a composizione non avrebbe fatto torto a un autentico signore. Il linguaggio, per quanto semplice, era forte e schietto, e i sentimenti che ispirava facevano molto onore a chi scriveva. Era breve, ma esprimeva senno, caldo affetto, generosità, garbo, perfino delicatezza di sentire. V'indugiò sopra mentre Harriet attendeva con ansia il suo parere e infine dovette aggiungere: «È una bella lettera o è troppo corta?» «Un'ottima lettera, davvero», rispose Emma piuttosto lentamente. «Così bella, Harriet, che tutto considerato, penso debba averlo aiutato una delle sue sorelle». «Beh», disse Harriet sempre in attesa. «Beh, che cosa devo fare?» «Che cosa deve fare? A che proposito? Ah, vuol dire della lettera?» «Sì, ma che dubbi ha? Deve rispondere, naturalmente, e presto!» «Sì, ma che cosa dire, cara signorina Woodhouse, mi consigli?» «Oh, no, è molto meglio che la lettera sia tutta sua. Lei si esprimerà come si deve, ne sono certa. Non c'è pericolo che non si faccia capire. E questa è la prima cosa. Nessuna ambiguità, né dubbi né esitazioni. I sensi di gratitudine e rammarico per il dolore così provocato che la creanza esige, le si presenteranno da sé alla mente. Non ha nessun bisogno, Harriet, d'essere incoraggiata a scrivere con l'apparenza del dolore per la delusione di lui». «Dunque, pensa che dovrei rifiutare?» disse Harriet, abbassando gli occhi. «Dover rifiutare, cara Harriet, che cosa intende dire? Ha qualche dubbio in merito? Oh, credevo che... Ma le chiedo scusa. Forse avevo capito male. Evidentemente, se è in dubbio sul tenore della risposta, ho preso un abbaglio. Immaginavo mi chiedesse un consiglio unicamente sui termini in cui formularla». Harriet tacque. Con un certo fare di riserbo, Emma continuò: «Ha in animo di dare una risposta favorevole, a quanto capisco». «No, no, cioè non ho in animo. Che cosa debbo fare? Che cosa mi consiglierebbe? La prego, cara signorina Woodhouse, mi dica che cosa dovrei fare». «Ritengo, in linea generale, che se una donna è in dubbio se accettare o rifiutare un uomo, è certo che dovrebbe rifiutarlo. Se può esitare a dir di sì, dovrebbe dire apertamente di no. Il matrimonio non è uno stato che si possa tranquillamente abbracciare con sentimenti incerti, con metà a cuore. Dirle questo mi è sembrato un dovere d'amica e di amica più anziana. Ma non si immagini che voglia influire su di lei». «Oh no, sono certa che lei è troppo buona per... Ma Se volesse consigliarmi per il meglio, per nulla al mondo, disse Emma con un grazioso sorriso. Per nulla al mondo la consiglierò in un senso o nell'altro. Il miglior giudice della propria felicità deve essere lei. Emma attese il risultato con impazienza, ma non senza vive speranze. Infine, con qualche esitazione, Harriet fece: visto che non mi vuole dare il suo parere, Miss Woodhouse, dovrò fare da sola il meglio che posso. E ho ben deciso, mi son quasi fatta una ragione di rifiutare il signor Martin. Crede sia nel giusto? Perfettamente. Perfettamente nel giusto, carissima Harriet. Lei agisce proprio come dovrebbe. Mentre era in bilico, ho tenuto nascosti i miei sentimenti. Ma ora che si è così fermamente decisa, non esito ad approvarla. Cara Harriet, le esprimo tutta la mia gioia. Sarebbe stato un dolore perdere la sua amicizia, come sarebbe avvenuto se avesse sposato il signor Martin. Finché era in dubbio, anche solo un po' in dubbio, non ne ho fatto parola perché non volevo influenzarla. Ma per me avrebbe voluto dire perdere un'amica. Non avrei potuto far visita alla signora Martin della fattoria di Abbey Mill. Ora sono sicura di non perderla mai. Elsa Galbato ha letto Emma di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello @rai.it.